Linee d'ombra di Matteo Caccia. Dopo un pochino ho sentito un'ambulanza partire a sirene spiegate. Siccome mi avevano detto che la bambina era piccola, volevano tenerla in incubatrice, io appunto non l'avevo vista, io ho pensato che fosse successo qualcosa. Prima ancora che la mia accompagnatrice mi indicasse Lucia, l'avevo già individuata. Era lei. Ne fui subito sicura. Storia di una bambina chiusa in una scatola e della nascita delle Poste Americane, in una puntata che si intitola Chiusa dentro. Signorita? Ah, oh, già, lei non la conosce, commendatore? È una vera fortuna, questo è il commendator Sassanolo, è un grande impresario. La signorina è una famosa contorsionista e con questa valigia fa un numero veramente eccezionale. Internazionale, mai visto nulla di simile. Mucho gusto, signorita. Che lavoro eseste? Straordinario, si intorcina tutta su se stessa e entra in questa piccola valigetta. Sì. E ci si fa chiudere. Ma è possibile? Ma come no? L'abbiamo vista tutti, perbacco. Faccia vedere al commendatore, su. Io non puedo lavorare senza musica, non musica, so, sì. Subito, musica, subito. Lento, vai orientale. Atmosfera pronta. È straordinaria, commendatore. Non si è mai visto niente di simile. Attenzione, attenzione. Oh, brava. Silenzio. Via, via. Bene, hop, via, svelti. Via, via, hop, hop. L'avete riconosciuti, loro sono amici miei, ovviamente, nella scena della contorsionista che viene chiusa nella valigia e spedita su un autobus che sta partendo e quindi non la rivedranno mai più. È quel celeberrimo, sublime e cattivissimo film, serie di film, che era appunto Amici miei. Si intitola Chiusa dentro, la puntata di oggi, ed è questa la storia che vi stiamo raccontando. La storia di una bambina appena nata prematura e che quindi rimane chiusa in un'incubatrice in attesa che la madre la riconosca, e poi invece un'altra storia che va da un'altra parte ma che ha sempre a che fare con l'essere chiusi in un luogo, ed è la storia delle Poste Americane, che in un'epoca nemmeno troppo lontana spedivano addirittura i bambini. Mentre preparavo questa puntata mi è venuto in mente uno di quegli episodi. Esisteva una serie televisiva tanti anni fa presentata da Hitchcock. Non erano girate, credo, da Hitchcock le puntate, però lui le apriva con quella voce pacciarotta e rotonda in cui diceva: un uomo ha combinato qualcosa ed è successo quello che state per vedere. Poi c'era anche una pubblicità che diceva: qualcuno ha spruzzato qualcosa su tende, finestre, lampadari. Ma quella era un'altra, vi dicevo. Mi ricordo questa puntata, che era la storia di un detenuto che cercava di fuggire e, se non ricordo male, si accordava con forse con l'uomo delle spedizioni del carcere proprio. No, si accordava con il becchino. Si accordava con il becchino del carcere, al quale diceva: la prossima volta che muore qualcuno, tu mi chiami, quando sento la campana io mi infilo nella cassa insieme al morto, la cassa viene portata al cimitero e dopo poco tu esci, diceva il becchino, mi vieni, scavi e mi liberi. E così succedeva, suonava la campana morto, lui si nascondeva in questa cassa insieme a questo cadavere, la cassa veniva chiusa, spedita, portata fuori dal carcere, messa nella terra. Lui da dentro, c'era questa inquadratura cupissima, tutto al buio, lui da dentro sentiva la terra che cadeva sulla cassa, fino a che tutta quanta la tomba veniva chiusa, e lui aspettava che arrivasse questo becchino con cui era d'accordo a liberarlo. Ma questo becchino non arrivava mai e lui era sempre più chiuso dentro in questa bara, fino a che a un certo punto recuperava, credo, un fiammifero, l'unico fiammifero che si era portato, che tra l'altro bruciava ossigeno, quindi era pericoloso. Lui lo accendeva e realizzava che il cadavere era quello del becchino, che era morto, e quindi lui sarebbe rimasto per sempre lì dentro. Vi ho totalmente spoilerato questo episodio di Hitchcock, che tra l'altro un tempo lo facevano vedere dopo il TG, se non ricordo male, su una rete Rai, ma adesso non si vedono più, quindi tant'è, insomma, andate a cercarvelo se volete, oppure ve l'ho raccontato io, quindi grazie, arrivederci. Si intitola Chiusa dentro, la puntata di oggi, e quindi cominciamo con le vostre storie. Linee d'ombra @radio24.it se volete mandarcene, altrimenti mettetevi comodi e mettetevi ad ascoltare. Benvenuti a Linee d'ombra. Quel giorno di gennaio, il 4 gennaio del 1992, mia figlia Lucia, la secondogenita, compiva 10 giorni ed io non l'avevo ancora vista. Non ricordo se il cielo fosse sereno o nuvoloso. Ricordo solo che guardando fuori dal finestrino durante il breve viaggio per Torino, tutto mi appariva bellissimo e luminoso. Non avevo paura, né nessun tipo di ansia. Pensavo solo che finalmente avrei conosciuto mia figlia, seppure dietro il vetro di un'incubatrice. Durante il viaggio mi resi conto che non avevo mai cercato di immaginare il visino di Lucia, nemmeno durante le lunghe giornate trascorse in ospedale. Avevo continuato a pensare a lei senza materializzarla, come un bel sogno indefinito di cui non conosciamo ancora la fine. La costruzione imponente dell'ospedale infantile troneggiava sulla collinetta alla periferia della città e vederla da vicino mi diede un senso di sicurezza. L'aria fuori era fredda ed entrare al caldo dell'atrio aumentò la sensazione di benessere che mi aveva dato la vista del Regina Margherita. Molti disegni infantili ispirati al Natale appena trascorso riempivano allegramente le vetrate e nei corridoi regnava una calma insolita, dato che non era un giorno di lavoro. Le poche persone che incontrammo prima di arrivare al quarto piano ci salutarono tutte sorridendo. Il reparto era chiuso e non era permesso entrare a nessuno, se non alle mamme per allattare i loro piccoli ad orari ben precisi e prefissati, data la necessità di salvaguardare al massimo i piccoli pazienti da un possibile contagio proveniente dall'esterno. Appresi in seguito che le eccezioni ammesse erano pochissime, ma avevamo ottenuto il permesso spiegando che io non avevo ancora visto la mia bambina e che ne avevo un grande desiderio e necessità. Non l'ho vista perché Lucia, quando è nata, non ha respirato perché aveva ingerito del liquido amniotico e quindi l'hanno immediatamente intubata, estubata, lei ha respirato, però dopo 2 ore e mezza è di nuovo andata in apnea. E allora qui dall'ospedale di Alba hanno ritenuto più sicuro trasportarla a Regina Margherita intubata in ambulanza e quindi io non l'ho vista. La vigilatrice di turno era stata comprensiva e, data anche la calma dovuta al sabato del fine settimana dell'Epifania, aveva consentito a permettermi di entrare verso le 4 del pomeriggio. Suonammo il campanello posto sotto la scritta «Reparto neonati a rischio» e subito una vigilatrice con indosso un camice azzurro venne ad aprire sorridente. Mi accolse con cordialità. Non era più molto giovane. Chissà quante mamme, nella sua situazione, aveva accompagnato a conoscere il loro figlio. Estrasse da un armadio posto vicino all'entrata quanto necessario per poter accedere alle camerette nelle quali sono ospitati i neonati. Mi infilai un camice di un materiale simile alla carta, sopra scarpe di plastica e una mascherina alla bocca. La donna mi guidò attraverso un corridoio alla sinistra del quale vidi molte camerette separate tra loro da pareti di vetro. I piccoli ospiti erano molti, ognuno nella propria incubatrice, e mi parvero tanti preziosissimi gioielli conservati gelosamente nel loro scrigno trasparente. Notai subito che la maggior parte dei bambini erano piccolissimi, dai lineamenti ancora indefiniti. Molti di loro avevano dei tubicini che attraverso il nasino li aiutavano a respirare. Prima ancora che la mia accompagnatrice mi indicasse Lucia, io l'avevo già individuata. Era lei, ne fui subito certo. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day. But the mother and child reunion is only a motion. Care for the life of me. Remember a Saturday. I know they say let it be. It just don't work out that way. And the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day. But the mother and child reunion is only a motion away. Oh, little darling of mine, I just can't believe it's so. Though it seems strange, strange to say. I've never been late so long in such a mysterious way. In the course of lifetime runs over and over again. But I would not give you false hopes on this strange and mournful day when the mother and child reunion is on. Ero certa di non sbagliarmi. Era lei. Infatti la vigilatrice, sempre sorridendo, si diresse verso l'incubatrice dalla quale non ero più riuscita a staccare lo sguardo. Un cartellino rosa, appeso alla grande scatola di plastica, mi confermò la mia intuizione istintiva. B10. Lucia Rossi. Gli occhi mi si riempirono di lacrime e per alcuni secondi vidi tutto confuso e opaco. Mi sforzai subito di rimettere a fuoco i contorni di quel momento che avevo tanto desiderato e che ora mi sfuggivano. Quando finalmente tutto tornò nitido, vidi molto di più di quanto non avessi sperato di vedere. Lucia mi parve perfetta. Era rosea, tondetta, e il suo visino aveva lineamenti finissimi. Già al momento della nascita, seppure prematura, il suo peso era buono e pertanto, tra tutte quelle miniature di bimbi, Lucia mi sembrò un gigante. Il suo corpicino non era oppresso da alcun apparecchio strano, aveva solo un piccolo sensore appoggiato sul cuoricino che ne controllava costantemente i battiti. Un assorbente a forma di mutandina decorato con dei teneri disegnini rosa era l'unico indumento che la copriva. Per il resto era nuda e fui attratta dal leggero movimento del torace mosso da un respiro calmo e regolare. Lucia dormiva serenamente. Mentre la fissavo con intensità, si girò nella mia direzione e per un attimo sorrise. Era perfetta, aveva un musetto rotondo, bellissima, ma proprio bellissima, con una boccuccia disegnata, e poi respirava tranquilla, e c'è stata questa concomitanza incredibile che io razionalmente sapevo dovuta al pasto che gli era appena stato somministrato. Aveva preso il latte, quindi nella digestione, nel sonno post latte ha sorriso, e io ho avuto l'impressione che la prima volta che mi vedeva mi avesse sorriso, ecco. Ero felicissima. Lucia era lì e finalmente avevo visto con i miei occhi che c'era davvero e che era la dolcissima bamboletta che avevo sognato di avere dopo il meraviglioso maschietto che la vita mi aveva regalato ormai quasi 4 anni prima. Il futuro di Lucia era ancora incerto, ma il vederla scacciò da me anche il minimo dubbio e fui certa che tutto sarebbe andato bene. Non desideravo altro da quella giornata, il cui ricordo mi è rimasto stampato a fuoco nel cuore e nella memoria. La vigilatrice, che si era prudentemente tenuta in disparte, mi si avvicinò e mi disse: «Venga signora, venga a lavarsi le mani, così potrà toccare la sua piccola». Io fui presa alla sprovvista, non avevo pensato che avrei potuto toccare Lucia. E d'istinto risposi: no, grazie, dorme tranquilla, non voglio disturbarla, l'ho vista e sono contenta così». Ma lei insistette: «Venga, non si preoccupi, a Lucia farà bene, è importante per lei un contatto con la mamma». Allora mi lavai le mani con un liquido disinfettante e la infilai nell'incubatrice attraverso i fori. Ebbi un lungo attimo di esitazione, non sapevo decidere dove toccarla. Poi le presi una mano e la accarezzai piano piano sul viso. La sua pelle era talmente morbida da sembrare impalpabile. La mia certezza che sarebbe andato tutto bene si rafforzò ulteriormente. E sì, andò tutto bene. Oggi Lucia è mamma di una bellissima bambina di 5 mesi. Listen and gather round me children. Children of a mother whose life lifted up love. Listen and gather round me children. children of a mother whose life lifted a peace. A mother who taught all of her children to love and be loved by each other. Holding your sister's hand as she walks across life and look out for each other. Carry your brother's load, don't you ever, ever betray him. Go to the store, buy grandmama a pound of love. Listen, gather round me children, children of a mother. Gather round me, children, children of a mother whose life lifted of hope, a mother who taught all of her children to love and be loved by each other. Hold your baby sister's hand as she walks across life and look out for each other. Carry your brother's Si intitola Chiusa Dentro, la puntata di oggi, e avete capito che Chiusa Dentro arriva dalla storia che ci ha mandato Egle, che è una storia bellissima, è una storia che, diciamo, è molto bella ed emotiva per un uomo, figuriamoci per una donna che quella cosa lì l'ha provata, cioè che dare alla vita una creatura l'ha provata, o tant'è, insomma, anche se non l'ha provata, è un'emozione che è palpabile nel suo racconto, anche e soprattutto per la lucidità con cui lo fa. Il dettaglio in cui dice che non sa come toccare questa bambina è veramente meraviglioso. Pronto, ciao Egle, buongiorno. Buongiorno Matteo. Senti, davvero non sapevi come toccarla questa bambina quando sei arrivata lì? No, sì, è vero, perché avevo tanto desiderato di toccarla che poi non sapevo come fare, ma oltretutto vederla mi era già sembrata veramente una gioia immensa. Lei stava dormendo, avevo paura di disturbarla, insomma. Sì, è stato un momento che molto particolare, non me lo dimenticherò mai più. È nata prematura di quanto? Di un mese. Doveva nascere il 20 gennaio, è nata il 24 dicembre. Ah, la vigilia. E in realtà, sì, devo dire che cosa le ha salvato la vita è stata proprio questa vigilia. Perché la vigilia di Natale, io stavo uscendo per andare a comprare gli ultimi addobbi per il tavolo natalizio e ho avuto qualche avvisaglio, insomma qualche dolorino. Siccome il primogenito l'avevo avuto con un parto cesareo, non ero un'esperta di parti naturali, essendo la vigilia di Natale ho detto vabbè, è meglio che senza il ginecologo, e così ho fatto. Non era la prima figlia, vero? Tu avevi già avuto, avevi già no, un bimbo. Sì, avevo già un bimbo di 4 anni, sì, però l'avevo avuto con un parto cesareo, quindi non sapevo. Infatti il ginecologo mi ha detto ma è la vigilia di Natale, vada in ospedale per tranquillità, facciamo un tracciato. Senti, e poi alla fine invece la bimba è stata trasferita da Alba. Tu sei di Alba, giusto? Sì, io sono di Alba, sì. È nata all'ospedale di Alba e non ha respirato subito perché purtroppo il liquido amniotico non era più funzionale per la salute del bimbo. Non ha respirato, è stata intubata, è stata estubata, ha respirato, ma dopo 2 ore e mezza una nurse che è andata a controllarla l'ha vista cianotica e quindi l'hanno nuovamente intubata e l'hanno portata a Regina Margherita, che è l'ospedale degli ospedali del Piemonte per i bambini. Certo. Senti, come sta oggi Lucia? Lucia sta benissimo, per fortuna. È stato solo, diciamo, uno spavento, ma Lucia sta benissimo e oggi è già mamma a sua volta perché adora i bebè, quindi sta benissimo. E tra l'altro Lucia, mi dicevi fuori onda che nella storia dici che ha 5 mesi, invece adesso ne ha 7 già la bambina. Ne ha sette, sì, io quindi sono una fortunatissima nonna. Vado a giocare alla bambola tutte le volte che posso. Senti Egle, invece un'altra cosa che ci tenevo appunto a sottolineare pensare che tu, e ne abbiamo parlato fuori onda, tu rappresenti, cioè la tua famiglia rappresenta una di quelle eccellenze dell'imprenditoria italiana, perché avete un'azienda di famiglia. Lo dico perché ho assaggiato il vostro prodotto, il vostro torrone, ed è squisito. Sto parlando del torrone Sebaste di Alba, ed è una delle cose, credo, più buone che abbia mangiato, forse perché apprezzo molto il torrone. La vostra è un'azienda storica, vero? Avete fondata quando? Nel 1800, mi pare. L'azienda è stata fondata dal mio bisnonno nel 1885, quindi oggi conta 135 anni e 5 generazioni, perché i ragazzi ora, per mia fortuna, ci lavorano. Okay. Di generazione in generazione, proprio ci sono tante aziende in Italia datate come la nostra, ma non tantissime che sono rimaste di proprietà della stessa famiglia. Noi, devo dire, ne siamo orgogliosi, ci piace lavorare. Senti, quanti nipoti hai a questo punto, Egle? Una sola. La prima, perché il primogenito, tra l'altro, poverino, si doveva sposare con la sua adorata Carlotta, ma purtroppo il periodo che stiamo vivendo, il coronavirus, gli ha strappato. Un'altra cosa che ha fatto è stato interrompere i matrimoni, è vero, hai perfettamente ragione. Sì. Ne avevo tre quest'anno. Quest'anno è tutti, davvero? Di un anno. E la domanda per tutti è, durerà fino all'anno prossimo? Sì, sì. Secondo me sì, nel nostro caso sì. Dimmi. Egle, ti ringrazio davvero molto per la storia, per la chiacchierata, e appena sarà possibile tornerò ad Alba a mangiare il vostro torrone. Ti aspetto, mi farà molto piacere riceverti. Grazie ancora. Ciao, buon lavoro. Grazie ancora, a presto. Grazie. Ciao. I lost myself again, but I remember you. Don't come back, it won't end well, but I wish you'd tell me to. Our love is six feet under. I can't help but wonder if our grave was watered by the rain. Would roses Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare di nuovo qui a Linea d'Ombra. Ciao, Vincenzo da Palermo, I love my radio. Ciao, sono Riccardo da Genova, I love my radio. Ciao, sono Corrado da Roma, I love my radio. Gli italiani amano la radio. Il 71% la ascolta anche da casa. L'ascolto da supporti digitali è aumentato del 24%. E per il 59% degli italiani la radio è relax e allegria. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani, anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'ombra. Oggi esistono molte formule per viaggiare e per far viaggiare i minorenni, sia in treno sia in aereo, con dei costi relativamente contenuti, ma decenni prima che il primo bambino non accompagnato salisse su un aereo, in compagnia di una premurosa assistente di volo per andare dalla nonna, alcuni genitori che non potevano accompagnare i propri figli avevano risolto il problema nella maniera più semplice possibile, e cioè spedendoli per posta, come una qualsiasi altra merce. E in questa puntata, che si intitola Chiusa dentro, la seconda storia di oggi l'abbiamo trovata sul Washington Post e racconta proprio di quando, all'inizio dei servizi di spedizione pacchi negli Stati Uniti, i bambini venivano spediti per posta. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Il servizio di pacchi postali negli Stati Uniti venne lanciato nel 1913. Prima di allora i pacchi erano limitati e le persone di solito non spedivano mai nulla di una certa importanza. Ma nei primissimi tempi in cui il servizio si diffuse, nel flusso della posta si riversarono una serie di oggetti, per cui ci si ritrovò del tutto impreparati. Gli americani sembrava che avessero scoperto un servizio straordinario e dai prezzi molto contenuti, e cominciarono a spedire di tutto, dalle bare alle uova, qualsiasi tipo di alimenti, freschi, stagionati, cani, altri animali, polli, scorpioni, arnie di api e in alcuni casi anche giovanissimi esseri umani. Secondo uno storico del National Postal Museum, il primo caso conosciuto di un bambino spedito fu nel 1913, quando i signori Beagle di Glen East, Ohio, spedirono il loro bambino piccolo, di 10 kg, a casa della nonna, a circa un miglio di distanza, pagando 15 centesimi in spese di spedizione e coprendo con una franchigia di $50 di assicurazione, perché erano molto preoccupati. I registri del museo però purtroppo non indicano se la nonna Beagle ha ricevuto il nipotino in una buca delle lettere o direttamente recapitato a casa. Ma alcuni bambini sono stati spediti anche molto più lontano, si racconta. Edna Neff, di Pensacola, Florida, aveva 6 anni quando fu impacchettata e spedita dalla nonna a casa del padre, a Christiansburg, in Virginia, a 1100 km di distanza. Ma al di là della curiosità, non bisogna immaginare che il prezioso contenuto di quei pacchi fosse avvolto con della carta marrone o, come faremmo oggi, con dei fogli di pluriball. Il servizio dei pacchi postali era ancora in via sperimentale e spesso questi bambini, francobollati, facevano da piccoli aiutanti o accompagnatori ai postini. Se si trattava di bambini troppo piccoli per camminare, allora venivano invece portati in braccio. Fra le varie curiosità del museo c'è anche la storia trovata da un certo Michael O'Tunnell, apparsa nell'Idaho State Historical Society. O'Tunnell ha fatto un serio sforzo nel ricercare la storia di una coppia dell'Idaho che, non potendo permettersi di mandare la giovane figlia a visitare la nonna, risolse il problema spedendola per posta. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. Saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in the wheat fields waving and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf. of stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me. I pacchi postali erano una novità, ma anche allora il regolamento proibiva la spedizione di esseri viventi con eccezione di api regina e di cuccioli. Il limite delle spedizioni era di 25 kg e la piccola Mai Pistorf pare ne pesasse appena 22. Venne classificata come cucciola e con 53 centesimi di affrancatura, molto meno del prezzo del biglietto ferroviario, venne caricata sulla carrozza postale la mattina presto e consegnata alla nonna la sera stessa. La nonna ebbe anche da reclamare perché le avevano attaccato i francobolli direttamente sul cappotto, rovinandoglielo. La ricerca di Tunnel verificò i fatti fondamentali della storia della spedizione di May Pirstoff, ad esempio. Avvenne il 12 febbraio del 1914, da Grangeville nell'Idaho a Lewiston, che è situata nell'Idaho del Nord, vicino alla frontiera con l'Oregon. Scoprì un resoconto dattilo scritto di due pagine di un impiegato postale ferroviario che accompagnò la bambina nel viaggio. Secondo il resoconto, il postino era anche un parente diretto della bambina e non sembra che la famiglia della bimba vivesse in particolari ristrettezze economiche. Pare invece che la madre sapesse che non vi sarebbero stati rischi e che la bambina non si sarebbe spaventata in compagnia del cugino che lavorava sulle carrozze del treno. Il viaggio però si dimostrò più duro di quanto la madre avesse immaginato. La bambina divenne insofferente durante il tragitto. Il capotreno poi, quando la trovò, protestò per avere un passeggero senza biglietto. Pare che quando però il postino mostrò al capotreno i francobolli, questi rise e disse che ora aveva visto davvero tutto e che questa sarebbe stata un'autentica notizia per i giornali. Come conseguenza, poco dopo il postino fu rimproverato dai suoi superiori per demeriti e per violazioni delle regole sul divieto dei passeggeri sulle carrozze postali. La questione venne risolta quando i genitori di May accettarono di pagare metà del biglietto della figlia. E fu anche grazie all'eco che la storia di May ebbe che il Dipartimento delle Poste, l'anno successivo, istituì una regola che esiste ancora oggi. Nessun essere umano può essere spedito. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all go to the university and they all get put in boxes, little boxes all the same. And there's doctors and there's lawyers and business executives and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martini dry and they all have pretty children and the children go to school and the children go to summer camp and then to the university and they all get put in boxes and they all come out the same. And the boys go into business and marry and raise a family and they all get put in boxes, little boxes all the same. Questa storia l'abbiamo trovata sul Washington Post ed è appunto la storia di come le poste americane a un certo punto avessero deciso che non si potevano spedire degli esseri umani, che detto così sembra quasi scontato e invece, come ci insegnano le storie come questa, se ci sono dei cavilli ci si può infilare dentro, aprire leggermente quel pertugio, infilarcisi e starci proprio come un piccolo pacco postale. Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Enea, raccontato da Virgilio, era un profugo che fondò Roma. E se è vero che la tradizione è spesso un'innovazione riuscita, un italiano a volte è uno straniero che ce l'ha fatta. Oggi i nuovi italiani sono quelli che vincono Sanremo o quelli che scendono in campo con la maglia azzurra. Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 21 con I figli di Enea, storie di nuovi italiani. Naturalmente qui su Radio 24. Linee d'ombra. Come sapete, se siete degli ascoltatori tipici di questo programma, e noi ne siamo estremamente felici se è così, magari se ci avete già mandato qualche storia, linee d'ombra@radio24.it, se ci ascoltate al pomeriggio, se ci ascoltate all'alba, come alcuni messaggi bellissimi che ci arrivano. Ci è arrivato di recente una mail di un pensionato che dice che fa fatica a dormire, quindi la mattina si mette le cuffiette, si ascolta la replica delle 5:15 del mattino e quando si sveglia sua moglie lo guarda e gli dice: sei collegato, con l'area, come dire, ma che fine hai fatto, ma come sei messo che ascolti la radio alle 5:15 del mattino? E beh, un saluto a lui, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano anche in quell'orario. Vi dicevo, se siete degli affezionati, sapete che da un paio di mesi a questa parte, in particolar modo con l'emergenza sanitaria legata al Covid-19, noi abbiamo cercato di mappare un pochettino tutte quelle che erano le situazioni legate alla quarantena, per cui da una parte le persone chiuse in casa, dall'altra quelle che uscivano di casa solo ed esclusivamente per fare acquisti, per portare fuori il cane, come la maggioranza di noi, e poi anche le persone però invece che continuavano a lavorare, tutti quelli legati alla catena dell'agroalimentare oppure alle necessità più strette della vita di ognuno di noi e che quindi dovevano trasportare su gomma, su treno, in giro per l'Italia o dovevano semplicemente essere presenti sul loro posto di lavoro perché il loro lavoro non è traslabile, non si può spostare nelle case. Insomma, abbiamo raccontato i diari della quarantena, considerato che da lunedì questa quarantena, così come è stata immaginata, poi continuiamo a usare il termine quarantena che è sbagliato, ma tant'è, insomma lockdown, chiamiamolo così anche se è un termine americano che non ci fa impazzire, ma vi dicevo, durante questi due mesi vi abbiamo raccontato cosa è successo. Lunedì questo lockdown si è chiuso, o meglio, un lockdown chiuso vuol dire che si è riaperto in sostanza, perché meno più meno da più. Quindi abbiamo cominciato a riaprire, abbiamo cominciato a riaprire i locali, abbiamo cominciato a riaprire gli uffici in parte, non abbiamo riaperto le scuole, ma non entriamo in questo tema, non voglio fare polemica, non è soprattutto un tema che riguarda noi. Radio 24 fa informazione magnificamente tutto il giorno, noi raccontiamo storie, però appunto abbiamo deciso di continuare a mappare quello che succede, quindi abbiamo in qualche modo chiuso i diari della quarantena. Vi ringrazio, continuano ad arrivare ancora, guardate, vi promettiamo che qualcosa ne facciamo, forse diventano un ebook, forse li pubblichiamo da qualche parte, insomma qualcosa sicuramente ne facciamo perché sono tantissimi, ma ora è il momento di raccontare la ripartenza, è il momento di raccontare come siete ripartiti. Guardate, vi faccio un esempio, io ho tra i miei contatti Facebook il contatto di un amico con cui ho lavorato tanti anni fa, quando facevo l'attore di teatro, avevo poco più di 20 anni, avevo fatto un'accademia e avevo cominciato a lavorare in teatro. Questo regista è stato uno dei primi con cui ho lavorato e poi lui ha continuato a farlo, io ho smesso di fare quella cosa stretta lì, cioè quella di recitare e interpretare dei personaggi in teatro, ho continuato a lavorare con la voce, con la scrittura, ma facendo questo, quindi insomma se ascoltate il programma sapete cosa faccio. Invece questo amico regista ha continuato a fare il regista, fa dei lavori molto interessanti e soprattutto queste figure professionali, quelle legate al mondo dello spettacolo, stanno vivendo un periodo difficilissimo perché lo sapete da voi, perché è vietato fare assembramenti, figuriamoci se è possibile chiudersi in un teatro per vedere uno spettacolo dal vivo. So che quest'estate alcune cose ripartiranno, soprattutto eventi all'aperto, molti festival sono stati cancellati, però qualcuno proverà, mantenendo un distanziamento sociale, a far ripartire anche questa attività, perché lo spettacolo dal vivo si chiama spettacolo dal vivo, altrimenti si chiamerebbe spettacolo dal web, e quindi tutte quelle forme surrogate sono un po' complesse. Insomma, questo microregista postava sul suo profilo Facebook un breve video racconto di come era ripartito con le prove del suo spettacolo. Il suo spettacolo avrebbe dovuto debuttare a marzo, chiaramente è saltato tutto, hanno dovuto interrompere le prove ed ora da casa lui e ciascuno degli attori da casa propria sono ripartiti in questo modo, cioè hanno ricominciato a provare nella speranza che probabilmente a maggio a giugno possano provare probabilmente in qualche spazio aperto e forse a settembre ottobre andare in scena. Ecco, questa è una ripartenza, questa è una idea di ripartenza. Se voi non dovete essere per forza dei registi, non dovete essere per forza degli attori, ma se siete dei commercianti, se siete dei genitori, se siete dei nonni, in qualche modo qualcosa è ripartito lunedì, una vostra parte della giornata è cambiata, la vostra apertura verso il mondo, l'orizzonte, finalmente non sono più le quattro mura di casa, ma se c'è qualcosa più in là, se volete raccontare una ripartenza, noi siamo qua ad accoglierla a braccia aperte. Linee d'ombra @radio24.it, i diari del ripartenza.